Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, le storie dell'Italia che non ti aspetti, i protagonisti della cronaca anche quando non stanno sulle prime pagine dei giornali. Questa è la nostra Italia in controluce. La Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. Una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno. Una Basilicata grandi pascoli, perché la Basilicata ha bisogno di orologi, ha bisogno di mucche, ha bisogno di cioccolato, altrimenti non sarà mai la Svizzera del Sud. E questo è l'inizio di Basilicata Coast to Coast, il fortunato film di Rocco Papaleo sulla regione del sud, forse meno conosciuta in Italia. Ed è qui che è ambientata oggi la prima nostra storia. Quanti sanno, per esempio, che ogni giorno si estraggono 50.000 barili di petrolio proprio dalla Basilicata, in quello che è diventato il giacimento più grande d'Europa? Una storia non tutta rose e fiori, anzi, perché, come la tragedia del Golfo del Messico ha insegnato, ma non solo, il petrolio è una tecnologia complessa dal punto di vista ambientale. Gennaro Grimolizzi. A Viggiano, in provincia di Potenza, si venera la Madonna Nera. Il suggestivo santuario mariano, situato a più di 1000 metri d'altezza, domina la Val d'Agri. Le sembianze scure della protettrice della Basilicata non dipendono però dal petrolio, che qui si estrae da una decina d'anni e ha trasformato Viggiano nella capitale italiana dell'oro nero. Il giacimento della Val d'Agri, scoperto dall'ENI all'inizio degli anni Ottanta, è il più grande dell'Europa continentale. Altre multinazionali si contendono lo sfruttamento del sottosuolo lucano. Nel 1989 le perforazioni hanno interessato il giacimento Gorgoglione, nel comune di Corleto Perticara, gestito dalla Total. I pozzi del colosso francese sono i più prolifici, con una capacità di circa 50.000 barili al giorno. Non basta il petrolio per essere felici. Pietro Don Marco è il presidente dell'OLA, organizzazione lucana ambientalista, da tempo impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati alle estrazioni petrolifere. Sono presenti quasi 471 pozzi totali, 22 concessioni di coltivazione, 10 permessi di ricerca e 17 istanze di ricerca, di cui praticamente alcuni di questi sono inseriti all'interno di aree protette come il Parco Nazionale della Val d'Agri, che può contare circa 15 pozzi e 700 km di oleodotti. Gli ambientalisti dell'OLA lamentano scarsi monitoraggi ambientali. Abbiamo più volte denunciato appunto l'assenza del monitoraggio per quanto riguarda alcune sostanze quali l'idrogeno solforato, l'IPA e i COV, e possiamo sostenere che in determinate aree della regione c'è un aumento spropositato dell'incidenza dei tumori, molti dei quali contano tra le loro cause proprio la presenza di benzene. Oltre al danno, la beffa? Pare proprio di sì. Non solo inquinamento, dunque, ma anche ricadute occupazionali poco rilevanti. I 30 comuni della Val d'Agri incassano le royalty, ma investono poco per gli interventi programmati. Dei 350 milioni di euro a disposizione, ne sono stati spesi 105, solo il 30%. L'incapacità di programmazione ha sortito i rimproveri della Banca d'Italia verso gli enti locali. Non mancano inoltre stranezze nella gestione della cosa pubblica. Basti pensare ad esempio che il comune di Marsicovetere, nel quale si è autorizzato un pozzo a soli 500 metri dall'ospedale di Villa d'Agri, una parte dell'anticipazione delle royalty avute dal comune dall'ENI di 25.000 euro, una parte di questi 25.000 euro, ben 7.000 euro, sono servite per le indennità degli assessori del comune. Le preoccupazioni legate all'inquinamento riguardano pure i gas utilizzati per perforare il sottosuolo. L'allarme è lanciato dalla professoressa Maria Rita Dorsogna, docente della California State University di Los Angeles. Già nel momento stesso in cui si va a trivellare, se uno va anche già vicino ad un pozzo di petrolio, lì c'è già un cartello che dice no, attenzione pericolo, qui c'è l'H2S. L'H2S è un gas che viene emesso nel momento in cui si inizia a trivellare e poi più avanti durante l'opera di raffinamento, che è un gas incolore, che ha una forte puzza di uova marce e che è un gas che dà problemi a tutto il sistema respiratorio, circolatorio e nervoso delle persone. A dosi alte può anche causare

La protesta dei 140 dipendenti della Vinyls sta vivendo un momento difficile. Condotta dall'avamposto della Torre Aragonese e dal carcere di Cala d'Oliva dell'Asinara, attendono ancora una risposta dal governo. Il problema non riguarda solo Porto Torres, ma il futuro dell'industria chimica italiana. Se è vero che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, perché qua si sta distruggendo il lavoro? Devo dire ai sindacati nazionali. Molta più determinazione, ci vuole molta più forza. Siete i rappresentanti dei lavoratori. Che succederà a novembre quando termineranno i sussidi della cassa integrazione? 400 euro, la cifra più alta percepita per permettere ai dipendenti di mantenere il loro contratto di lavoro in attesa del reintegro. Il nostro prodotto è il migliore del mondo, sottolineano, non riusciamo a capire il motivo della chiusura dello stabilimento. Ogni tanto una delegazione degli operai della fabbrica di PVC viene fatta evadere dai promotori di altre mobilitazioni isolane perché, spiegano, l'unione fa la forza. Oppure vengono chiamati a raccontare la loro vicenda sui palchi delle manifestazioni culturali in Sardegna. A volte attraversano il mare anche per promuovere il loro libro. Il ricavato servirà per acquistare un endoscopio pediatrico per l'ospedale di Sassari. Da due mesi i cassintegrati non sono più soli sull'isola. Nelle celle della diramazione centrale del carcere di Cala d'Oliva nel Nord Sardegna, che in passato hanno ospitato mafiosi e brigatisti, oggi vivono i reclusi volontari con le loro famiglie. Lorenzo, gli occhi azzurri come il mare che circonda l'isola dell'Asinara, è il più giovane autodetenuto. Suo padre Andrea da 180 giorni vive nell'ex colonia penale. Come moglie, come madre di Lorenzo, sinceramente non mi sentivo di lasciare, di abbandonare mio marito in questa lotta. Sostenerlo da casa non era la stessa cosa che sostenerlo da vicino. La sala da pranzo è stata trasformata in una sorta di museo. Fotografie, lettere, disegni dei sostenitori tappezzano le pareti. C'è anche una biblioteca. I libri raccolti saranno donati ad una prigione ancora operativa. A prescindere dall'esito dell'avvertenza, la vicenda lascerà un segno indelebile. Persino il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, segue la pacifica occupazione dell'Asinara. A protesta finita riceverà in dono dagli isolani la scultura intitolata L'Italia dei naufraghi del lavoro, realizzata da Enrico Mereo. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Vi ricordo che potete scriverci controluce@radio24.it. Siamo anche su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Ci sentiamo domattina all'edizione delle 6:30. Buona giornata.